9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io. Guardate le reazioni dei due quotidiani vicini al centrodestra, anzi del centrodestra, di Berlusconi alle elezioni siciliane. Allora prendiamo innanzitutto Libero, che intitola una crocetta sul PDL. Che cosa dice Libero? Berlusconi vuole una lista con Bossi e Tremonti. Prendete il giornale invece. Berlusconi sostiene Angelino, ma pensa ancora alla sua lista. Le idee sempre chiare a destra. Avanti così, c'è un bel iceberg. A fondo! Finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Un mondo migliore, ancora da Libero, titolo a pagina 3. Pronti a mollare il CAV, 3 deputati su 4 del PDL. E chi siamo noi per contraddire loro? 3 su 4. Quando la mare va a fondo, i topi si sa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io. E allora, questa volta dalla Stampa, commento di Vendola, elezioni siciliane. L'alleanza tra PD e UDC non è un laboratorio per il futuro. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Pensiamo un secondo alle cose concrete. Allora andate sul Sole, guardate un po' che cos'è questa querela sulla terza rata dell'IMU, di cui ancora non siamo riusciti a capire, perché ieri CAF ci hanno detto governo proroga la terza rata perché i comuni non hanno ancora deciso. Guardatemi un pochino l'elenco delle cose concrete mentre i partiti fanno quello che fanno. Allora ci sono rincari anche del 500%. 500%, avete capito? A Rovigo, a conto pagato a giugno 25 euro, pagamento a dicembre 150 euro. O che ne so, a Napoli aumento del 102%, a conto pagato a giugno 93 euro, pagamento a dicembre 188 euro. O che ne so, Roma più 171%, a conto di giugno 238 euro, pagamento a dicembre 408 euro. Poi dite perché la gente sta a casa, ma come fa a conciliare se PD o UDC, oppure l'unica cosa che conta il più 500% dell'IMU? Per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! Va bene, cari ascoltatori, va bene. Come avrete capito, noi continuiamo l'analisi del voto siciliano che già Alessandro Milan prima di me su questa rete ha cominciato. Oggi martedì 30 ottobre, auguri a chi si chiama Germano. E insomma, quello che più o meno si poteva prevedere è accaduto, nel senso che mi avete sentito dire che la mia opinione era di un grillo abbondantemente vicino al 20%, e così è avvenuto. Mi avete sentito dire, e qui forse Non prevedevo meno del 50% della partecipazione, ma insomma dicevo la gente resterà a casa e questo è solo l'inizio di quello che avverrà a livello nazionale. Dopodiché mi avete sentito dire PD UDC che è il vero banco di prova a livello nazionale dell'alleanza Bersani Vendola Casini. Io mi auguravo e speravo che non funzionasse, non ha funzionato ma per un soffio a dire la verità, perché non c'è il governo nell'Assemblea regionale siciliana, ma in realtà l'ex sindaco Costuttiano di Gela, Camillo Crocetto, ha vinto da questo punto di vista, anche se ha vinto con la continuità rispetto al sistema lombardo, cioè quello di più grave spoliazione della storia siciliana. Certo, se ci si sposta a centrodestra, la famosa isola del 61-0, risultato di un tempo, no? Tutta la Sicilia che con i 61 collegi si volgeva in ginocchio a Berlusconi è diventata quella dell'azzeramento virtuale, reale, totale del PDL, della sua capacità di aggregare, di prendere voti, di sopravvivere. Berlusconi ha un bel dire sui suoi giornali: se davate retta a me, comici che avevo la soluzione, questo scaricabarile che serve, come avete visto sul giornale Libero, ci sono due posizioni diverse, c'è un Berlusconi che trae una lezione nazionale dicendo farò una lista con Bossi e Tremonti, che fossi nel Stato Maggiore del PDL mi metterei a ridere, con Bossi e Tremonti, Bossi cacciato dalla Lega, Tremonti uscito dal PDL, questa sarebbe la soluzione per Berlusconi come risposta alla Sicilia del posizionamento nazionale per prendere voti del suo PDL, e l'altro giornale invece dice ma no, appoggia Alfano, domani parte Mermalindi, che è una bella forbice di possibilità. Comunque certo per il PDL il voto siciliano è un voto di una colata a picco, senza soluzioni per l'avvenire. Dopodiché è difficile veramente dire in questo voto disgiunto, se si possa considerare questo voto disgiunto siciliano, che si è variamente distribuito perché Cancelleri del Movimento 5 Stelle se ne è avvalso, altri pezzi di sinistra ne sono stati puniti. Non so se condividere opinioni come quella per esempio del ministro Andrea Riccardi, che oggi sul Messaggero dice ormai pure i grillini sono visti come parte del teatrino. Francamente io credo che il voto a grillo sia visto come l'unica alternativa al teatrino, quindi non sono per niente d'accordo su questo. C'è un inizio di crisi molto evidente per l'Italia dei Valori e Di Pietro, non mi pare proprio che per Grillo ci sia un accostamento di questo tipo. Vediamo però, in questa prima parte di trasmissione vi chiederemo molte opinioni, quindi telefonate, prenotatevi 800 24 00 24. In questa prima parte della trasmissione cerchiamo di capire, di interpretare come hanno votato i siciliani, e abbiamo con noi il professor Roberto Dalimonte, che insegna il sistema politico italiano alla LUIS di Roma e che scrive anche per il Sole 24 Ore. Buongiorno professor Dalimonte. Buongiorno. Allora, dovesse mettere in fila per ordine di importanza, secondo lei, i dati più importanti, più rilevanti a suo giudizio, di ciò che si produce di nuovo, dei flussi, degli spostamenti di questo voto siciliano, cosa direbbe? Beh, l'astensionismo, il funzionamento della legge elettorale siciliana, che è diversa da quelle delle altre regioni, la vittoria di Crocetta, o la mezza vittoria di Crocetta, e Grillo, PDL. Iniziamo dall'astensionismo. Lei più o meno se lo aspettava di queste proporzioni? Sì, più o meno sì. Certo, fa impressione vedere per la prima volta in una elezione regionale l'astensionismo sopra il 50%, insomma che la partecipazione elettorale ha sfondato a ribasso la soglia simbolica del 50%. Era successo in Sardegna, ma l'elezione europea non era mai successo che si votasse così poco in un'elezione regionale negli ultimi 50 anni. E da questo punto di vista, secondo lei, il più penalizzato è il centrodestra? O invece, se uno fa poi la proiezione dei voti ottenuti da Crocetta, il 31% di meno della metà, va a vedere l'astensionismo ha colpito tutti? L'astensionismo ha colpito tutti, ha colpito anche la sinistra, non soltanto il centrodestra. Poi naturalmente dovremo fare i flussi, quando avremo a disposizione i dati di sezione che potremo fare i flussi si capirà meglio, però l'impressione così oggi è che abbia colpito tutti, anche il centro-sinistra. E da questo punto di vista Grillo è ha ragione il ministro Riccardi, secondo lei, già iniziato a vedere come uno che rosica voti ai partiti ma al di dentro di chi va a votare rispetto all'astensionismo che invece è estraneo al fenomeno Grillo? No, ha ragione lei. Cioè, ha ragione lei, Giannino. Senta, ho sentito il suo commento. Mi faccia capire una cosa invece. La vittoria dell'asse PD-UDC senza Vendola è una vittoria in queste proporzioni, stava nei sondaggi o i sondaggi era un pochino meno? No, nei sondaggi noi decise, il mio centro studio aveva fatto una simulazione che avevamo pubblicato con Grillo il 15% e risultava esattamente così, anche nella distribuzione dei seggi per circoscrizione. Noi con Grillo al 15 non sapevamo se Grillo sarebbe arrivato al 15, ma con Grillo al 15 i risultati erano quelli, e questo è quello che è successo. Tenga conto comunque che siamo sempre con una, appunto dicevo, la legge elettorale, siamo sempre con un sistema elettorale che lascia Crocetta con una minoranza di seggi, mentre nelle altre regioni italiane, dicevo, questa è la differenza fra la Sicilia e le altre regioni, che nelle altre regioni italiane la sera del voto, cioè ieri sera, si sapeva chi avrebbe governato e come. In Sicilia no, perché la legge elettorale siciliana è diversa dalle altre. Oh, da questo punto di vista, la tenuta, diciamo, dell'alleanza PD-UDC, con un voto del PD però che è molto basso e con il candidato che viene premiato per via del voto disgiunto, cioè l'ex sindaco, questo è un fenomeno che ci dice che cosa? Che secondo lei, d'accordo, non ha avuto ancora il tempo e il modo per studiare i flussi, ma la caduta del PD di fronte a un fatto che nel voto disgiunto invece il candidato della coalizione, Crocetta, si è avvalso di un differenziale a suo vantaggio, che cosa può voler dire? Travasi di voti dal fronte moderato? Che cosa? Senta, c'era, io l'ho scritto prima del voto, che c'era un incentivo molto forte per, diciamo, nella distribuzione dei numeri, c'era un incentivo molto forte per Lombardo a far votare Crocetta, perché Lombardo avrebbe avuto un potere di ricatto, un potere negoziale maggiore se avesse vinto Crocetta rispetto alla situazione in cui avesse vinto invece Musumeci. Quindi è quello che si è verificato, cioè secondo me, poi di nuovo dobbiamo vedere con i dati di sezione, quindi vedere i flussi, però io da qui non arriverei a fare proiezioni sul voto, sulla scena nazionale, piuttosto c'è da chiederci se, visto che è andata bene in Sicilia l'alleanza pre-elettorale tra PD e UDC, non si deve fare un'alleanza pre-elettorale fra PD e UDC e altre formazioni di centro anche a livello nazionale. Perché da questo punto di vista l'altolà di Vendola è un altolà che chiaramente interpreta questo segnale, cioè che il cuore dell'alleanza che Bersani, sia pure con Renzi, candidato alle primarie, ha disegnato con Vendola, se dopo il voto siciliano, rispetto a un andamento di voto deludente per la sinistra antagonista in Sicilia, sembra spostarsi esattamente verso il centro. Lei dice l'incentivo è quello a dichiararlo anche con alleanze prima del voto politico, capito bene? Io mi faccio la domanda. La risposta non è semplice, Giannino. La risposta non la deve dare lei, più che altro, giustamente, perché, ma la devono dare i politici. Perché la Sicilia è una regione particolare, una situazione particolare, molto peculiare, però c'è da porsi questa domanda. In Sicilia l'alleanza pre-elettorale è andata bene. Questo, naturalmente, faccio questa domanda anche in funzione della riforma elettorale nazionale, perché mantenendo il porcellum, il cosiddetto porcellum, magari inserendo una soglia del 40% per far scattare il premio, se funzionasse un'alleanza preelettorale tra PD e UDC e, aggiungo, altre formazioni di centro in via di costituzione, ecco che un sistema elettorale nazionale così riformato potrebbe dare una garanzia di governabilità che invece il sistema elettorale siciliano in questo momento non dà. E naturalmente questo però fa un po' pugni con il fatto che le impressioni dalle cronache politiche romane sembra che attualmente la prospettiva di una riforma elettorale come quella che avanzava in Senato, cioè neoproporzionale ma con un premio di coalizione del 12,5%, sembra invece aver ceduto di nuovo lo spazio al voto con il porcellum. Io lo dico con una specie di raggricciamento dei miei pochi per i residui, ma però questo è quello che ci dicono i nostri colleghi a Roma. Bisogna vedere se poi è Berlusconi che lo sta offrendo al PD o il PD che ragionamento si faccia su questo punto. Senta, invece, però, lei che dice? Dunque, io voglio dire una cosa che non viene detta. L'attuale disegno di legge Malan prevede non un premio al 12,5, ma un premio più basso. Il premio del disegno di legge Malan è sotto il 10%. Io lo calcolo tra l'8 e il 9. Adesso io non entro nei dettagli perché gli ascoltatori non sono interessati a cose tecniche complicate, ma lo voglio dire con chiarezza: quel premio di maggioranza non è il 12,5%, ma è più basso. Che non è neanche un premio di maggioranza, è un bonus, un premio. Sì. È inferiore anche a quello della legge elettorale siciliana, che sappiamo è il 10%. Bene, quello nazionale, così come concepito nel disegno di legge Malan, è meno del 10%. Allora, spostiamoci un secondo verso, diciamo, il grande assente, cioè dal 61 a 0, tutto al centrodestra, a questo autocollassamento un po' singolare nel cui esito si è risolto per il PDL queste consultazioni regionali. Lì quali sono i macro fenomeni che si capiscono? Beh, nel caso del PDL abbiamo già detto, c'è stato uno sbottamento dell'elettorato del PDL verso Grillo e ancor più a mio avviso verso l'astensione. Poi c'è stata naturalmente una fuoriuscita di voti ex PDL verso la lista Amici Grande Sud, che non è andata benissimo, però ha portato via dei voti del PDL. Ma della sconfitta del PDL c'è di tutto naturalmente, appunto dicevo, c'è l'astensionismo, c'è il voto di protesta, c'è il voto verso Grillo, e ci sono soprattutto le divisioni profonde, le inimicizie tra leader e componenti di questo partito. Quindi insomma si può dire che quando la Prezzi Giacomo ha detto ci siamo un po' uccisi da soli, perché fuori da coltellarci sono rimasti solo i coltelli, ma le vittime hanno giaciuto per terra, nessuno più è stato capace di prendere voti, non è molto lontano dalla realtà. Ma Berlusconi su che ha secondo lei dei presupposti reali per dire non mi avete dato retta? Cioè c'era una strategia che per qualche secondo nei sondaggi nelle settimane o nei mesi scorsi i siciliani hanno mostrato in qualche maniera di apprezzare di più, che era sostenuta ipoteticamente da Berlusconi? Lei ne ha colto il segno oppure è una chiacchiera di Berlusconi? Ma secondo me, cioè, Berlusconi si riferisce al fatto che lui aveva indicato come candidato Micichè e pensava che dietro Micichè si potesse realizzare diciamo l'unità di una buona parte dei moderati, ma in realtà era torto, perché la candidatura di Micichè è stata bocciata all'interno del suo stesso partito, quindi la deduzione logica da fare è che se si fosse insistito sulla candidatura Micichè comunque il partito si sarebbe diviso e avrebbe perso, perché la divisione, come dicevamo, le divisioni sono profonde. Allora, io faccio un'ultima domanda al professor Dalli Monte. Quanto tempo ci vorrà, secondo lei, ed esiste un criterio, perché io sono un po' perplesso, per il quale dalle elezioni regionali siciliane, con tutte queste particolarità che abbiamo visto, a cominciare dalla legge elettorale, si possa fare una qualche elaborazione proiettiva nei confronti delle politiche? C'è il modo, no, oppure è scorretto? No, non c'è modo, però si può dire una cosa, cioè che il fatto che Grillo abbia preso il 15% come lista, il 18% come candidato, ci fa capire che ormai il Movimento 5 Stelle è un movimento nazionale. Fino a ieri noi avevamo dei dati di sondaggio, che erano dati virtuali, sulla forza del Movimento 5 Stelle, e oggi abbiamo un dato reale, ed è la prima volta che abbiamo un dato reale di questa consistenza in una regione, perché fino adesso Grillo aveva raggiunto realmente queste cifre soltanto in territori, come dire, più limitati, cittadini, e sapevamo bene che Grillo aveva un buco nero, il movimento di Grillo nel sud non era presente, o quando era presente raccoglieva pochi voti. Si figuri che nelle amministrative di qualche mese fa, parliamo della primavera, di questa primavera scorsa, si è rappresentato in 3 comuni siciliani sopra i 15.000 abitanti, il Movimento 5 Stelle ha raccolto il 4,2. È interessante andare a vedere negli stessi 3 comuni quanto ha raccolto oggi. In ogni caso sappiamo che ha raccolto il 15% in Sicilia e che a questo punto raccoglierà più o meno gli stessi voti nel resto del sud, quindi è diventato non più un movimento del centro-nord, è diventato un movimento nazionale. Questo è un dato che posso tranquillamente proiettare. Ed è corretto anche chi dice che si è preso, insomma, il 18% il suo candidato in Sicilia a livello nazionale, vista la minore vischiosità del voto, si potrebbe pensare che sia tra il 23 e il 25? No, non arrivo a dire questa cosa. Questa è una proiezione, secondo me, che non si può fare oggi. Possiamo dire che comunque oggi a livello nazionale è intorno al 15%, più o meno, cioè, non abbiamo una sfera di cristallo, però arrivare a dire oggi, sulla base del voto siciliano, che Grillo è al 22-23% a livello nazionale, no, non mi pare che sia corretto. Va bene, allora intanto noi ringraziamo il professor Roberto Dalimonte. Io ricordo a tutti che tra gli altri dati di questo voto ce n'è uno che riguarda il fatto che per esempio sono stati bocciati Vendola, ma anche Fini, anche Di Pietro, sono tutti fuori dall'assemblea. Invece il figlio di Lombardo, uno dei veri vincitori, forse il vero vincitore, io sono d'accordo in questo con l'intervista lesa da Pietrangelo Buttafuoco sul giornale, neanche Grillo può riscattarla, ed è l'intervista in cui spiega come equalmente Carmelo Crocetta è il blocco politico, qualunque cosa dicano Casini e Bersani, di totale continuità con il sistema lombardo. E io sono d'accordo con quello che dice Pietrangelo Buttafuoco. Attenti, perché la proiezione a livello nazionale dell'alleanza PD-UDC nasce sotto la continuità con i depredatori e i ladri in Sicilia. Questo è un punto sul quale analisi dei candidati, testa per testa e capo d'imputazione per capo d'imputazione, nessuno è in grado di dire il contrario. Sono con noi Francesco Verderami del Corriere della Sera. Buongiorno e grazie Francesco. E il direttore del Tempo, Mario Sechi, che oltre a salutare, ricordo a voi tutti che siete in ascolto, che sta uscendo in questi giorni, lo trovate nelle librerie, la sua ultima fatica, un libro per Mondadori Editore, Tutte le volte che ce l'abbiamo fatta. Grazie, buongiorno anche a te Mario. Grazie, buongiorno Oscar e buongiorno a Francesco e a tutti gli ascoltatori. Allora, il titolo del Corriere della Sera, Verderami, stamattina era Vince l'AS PD-UDC, come prima notizia rispetto anche a quella di Grillo, primo partito. È davvero questa secondo te, cioè la proiezione di una ipotesi già bella forte per così dire, magari rafforzata anche da Montezemolo che in interviste dice chiediamo a Monti se si vuole candidare, ma ci vuole una forte risposta, ma è più o meno nel solco di questa roba PD-UDC. Tu dici che questa è la vera prima proiezione nazionale del risultato siciliano? Tendenziale forse, ma sapete, poi i titoli tendono a semplificare inevitabilmente, anche per ragioni di spazio. La mia opinione è che nel sistema frammentato di oggi, che il voto siciliano ci mostra, l'idea di un asse DC UDC-PD, stavo per dire DC-PC, lapsus freudiano, UDC-PD rischia di non avere nemmeno la maggioranza, cioè, oh. Il problema è questo, c'è un problema di numeri oggi c'è un problema di numeri al netto del devastante buco nero che sta raccogliendo tutto il voto berlusconiano o gran parte di esso, ma c'è un problema di numeri e c'è un problema anche, secondo me, di un innesco che consenta a una formula politica di avere appeal elettorale, cioè che il cittadino, ci deve essere un motivo per cui il cittadino adesso va a votare, se persino in Sicilia non vanno più a votare e non ci va a votare oltre la metà degli elettori, significa che c'è un problema, ecco. So come dire. Senta, Sechi, altro che se c'è un problema, sono d'accordo con Francesco. Sechi, fa un po' impressione vedere Miciche con 685 preferenze che resta fuori dall'assemblea a Palermo, raccolte a Palermo. 685 preferenze ottenute dalla sua lista a Palermo, cioè, sono una cosa di fronte alla quale uno dice: ma cioè, non è che è una sconfitta politica, è una specie di teletrasporto altrove di tutto ciò che restava del PDL. Ergo siamo all'anno zero, no? Anzi al ground zero a questo punto della politica italiana. Guardate, Francesco Verderami lo sa perfino meglio di me, credo, e Oscar tu pure le vedi le cose. Insomma, il voto siciliano è una anticipazione di quello che succederà poi sul Parlamento nazionale, perché lasciate perdere tutte le alchimie elettorali che si stanno studiando da mesi senza arrivare a niente, tra l'altro, e ancora di più in queste ore. Ma c'è un dato che spazza via tutto: quando tu hai una forza nuova che entra con il 15% in Sicilia e dunque molto probabilmente dove è più diffuso il voto d'opinione, cioè nel centro-nord, metterà il 2 davanti, e cioè il Movimento 5 Stelle, hai voglia tu di fare sbarramenti, primi di maggioranza e così via, quella roba va da sé, sconvolge la geografia politica. L'altro aspetto è quello che ho evidenziato prima Verderami, cioè c'è un problema di numeri. Voi dovete immaginare che nel 2008 il PD e il PDL insieme presero il 70% dell'elettorato, erano pari alla bellezza di 26 milioni di voti. Nel 2013, cioè 5 anni scarsi dopo neppure, i due partiti non arrivano insieme, molto probabilmente, a fare più del 42-43%, il che significa che quei 26 milioni di voti sono diventati 13. E quei 10 milioni e fischia di voti a chi vanno? Questa è la domanda. Gran parte se n'è andata in Sicilia per l'astensione, secondo me avremo un fenomeno altrettanto grave probabilmente anche a livello nazionale. Una parte importante se n'è andata verso Grillo, e dopodiché c'è il grande buco nero del centrodestra italiano, perché parliamoci chiaro, qua l'unico partito che sta ancora in piedi, male, ma sta in piedi è il PD. Dopodiché abbiamo un partito, anzi un blocco politico moderato, chiamiamolo così tra virgolette, che si è completamente sfaldato, i cui consensi sono più che in libera uscita, ma come dicevi giustamente tu prima, Oscar, trasportati altrove, e c'è bisogno di un soggetto che li raccolga, parliamoci chiaro. Quindi, che ne so, qua bisogna trovare un sistema per rimettere in piedi un rassemblement di forze che poi diventi qualcosa di più, quindi un contenitore nuovo dell'area politica moderata, e si riprende in mano le redini di un'avventura politica che 20 anni dopo è fallita. Parliamoci chiaro, il PDL è un fallimento prima che politico-culturale, perché vedete, un leader può declinare, ma lascia qualcosa. De Gaulle in Francia finì la sua esperienza, pensava di non far sopravvivere a se stesso il gollismo, e invece il gollismo è sopravvissuto. 20 anni dopo, poniamoci la domanda, che cosa resta del berlusconismo? Io la mia risposta l'ho data, ma non sono qui per dare risposte, io do domande. Un'altra intervista che oggi mi è piaciuta molto sui giornali è quella sul Corriere della Sera, sempre quella di Roberto Andon, che da una parte dice chiaramente, sposa la linea, secondo me, della oggettiva ragionevolezza di Mario Secchi nel dire destra allo sfacelo, raccoglie quel che ha seminato. Dall'altra parte però, cosa che mi sembra manchi un po' in molti osservatori oggi, dice, rivolgendosi alla sinistra, guardate che poi il PD ha preso sul totale dei voti ripartiti tra i partiti, la lista del PD ha preso in realtà poco più del PDL, perché il Partito Democratico ha preso il 13,5%, ripeto, che sul totale dei voti va abbattuto il 50%, visto che uno su due non ha votato, quindi è come se avesse preso il 6%, questa viene considerata come una vittoria. E Roberto Andone nella sua intervista dice: il PD, il Partito Democratico in Sicilia, in realtà ha la responsabilità di aver condotto un gioco scellerato. Sostenere il governatore lombardo è stata la declinazione peggiore della furbizia dei partiti che tutti accomuna qua. Quindi io metto anche queste belle cose qui, perché Bersani poi esulta, ma esulta di un risultato che è di un poco, di uno 0, superiore a quello del PDL, che è finito ed è sparito. Invece, se guardiamo invece all'interno della cosa del PD, secondo Francesco Verderami, questo voto siciliano, che viene visto come una vittoria, anche se insomma è quello che è molto diverso da una vittoria, ma secondo te nella gestione delle primarie Bersani-Renzi e nell'alleanza che Bersani aveva detto con Vendola, ma adesso deve correggere verso Casini, che cosa può ragionevolmente cambiare, conoscendo un po' dal di dentro la gestione bersaniana? Ma non cambia nulla. Io mi permetto però di dire che non è Bersani il problema. Il problema è un partito, quello del PD siciliano, che viveva una sua autonomia a statuto speciale e che ha veramente, mi consentirete il termine, combinato carne di porco in Sicilia insieme a Lombardo nell'ultimo periodo. È chiaro che la vittoria di Crocetta, che copre questa malaccorta gestione, sotto c'è sempre Lombardo, ancora adesso. Quindi non si è risolto nulla, ecco perché dico che l'asse DC, chiedo scusa di nuovo, UDC PD, perché poi alla fine si finisce sempre lì, cioè poi cominciamo ad essere vecchi un po' tutti. Non no? solo ti capisco, ma viene anche a me di dirla così. Sì. Ecco, l'asse UDC PD è strumentale, peraltro è un asse, come dire, figlio di un'altra stagione per dei rapporti tra Bersani e Casini, ed è una stagione che per un verso o per l'altro non può essere riproposta. Il problema allora ce l'ha Bersani in casa e lo deve sistemare, e attenzione perché vorrò vedere all'opera la gestione Crocetta trattino Lombardo. Il problema ce l'ha dall'altra parte, e quindi bene o male comunque il PD prova a reggere per quel che può, ha dato anche le primarie, quale altra prova poteva dare questo partito? Io onestamente non riesco a vederne di più, sta cercando un rinnovamento, peraltro molto difficile. Certo, al PD va riconosciuto quello che dici tu, non ha fatto il PDL niente di tutto questo, quello ha cambiato lo statuto, ha detto facciamo le regole, Renzi proponga di essere lui, no, vero quello che dici, quindi... Il problema, chiedo scusa e finisco e concludo, il problema non è nemmeno soltanto il PDL, il problema è un'area senza nome, senza leader, che è stata per 60 anni maggioranza del paese e che non vede nessun gesto di generosità da parte degli attori politici dagli attori culturali che potrebbero, come dire, garantirle nuovamente una rappresentanza parlamentare. Questo è il vero problema. Perché Berlusconi ha letteralmente dissipato le ultime mosse che aveva fatto e che andavano in una direzione, abbastanza giusta. Ecco, capisco che per lui era difficile, però se poi gli ritorna su e non gli può tornare su dopo la sentenza Mediaset. Totale. Nel gioco Casini PDL, che è stato finora un gioco al massacro anche rispetto ad Alfano, non è che abbia pagato. E se andiamo a guardare anche tutti gli altri attori di quest'area moderata che si fanno avanti, lo stesso Casini parlò di esasperati tatticismi della società civile, e Micichè, per concludere, a cui tu ti riferivi prima, Oscar, dei suoi 600-800 miseri voti, Micichè è quello che propone prima la candidatura di Musumeci per tentare di spaccare il PDL in Sicilia, poi quando si accorge che invece il PDL ci arriva Campatto se ne tira via, perché naturalmente non vuole questa operazione. Ma volete pensare veramente che la gente alla fine non si stufi dei Casini? Sì, esattamente, sono d'accordo, anche compresa la parte che per delicatezza non è voluto approfondire sulle esasperati tatticismi della società civile. Ho capito che stavi parlando anche perché con un orecchio sentissi diverso da quello del conduttore. Io purtroppo sono d'accordo, mi dichiaro abbastanza vicino al fallimento individuale da questo punto di vista. Certo è che la mia opinione è che le primarie del centrodestra dovrebbero essere aperte solo a esterni, questa dovrebbe essere l'unica vera chance per chi ha votato PDL, primarie solo per esterni, perché altrimenti credo che veramente quest'area resterà totalmente priva di rappresentanza. Sentiamo un ascoltatore, Mario dalla provincia di Catania, che da quello che capisco, da quello che mi scrivono le ragazze nostre del centrino, deve essere del PD, un dirigente del PD, ho capito bene Mario? Sì, perfettamente, mi meraviglio di lei, dottor Giannino, lasciamo stare i verderami che non mai stanno seduti nelle federazioni, ormai non vanno più in chiesa. Ma il Partito Democratico in questa elezione aveva due liste, la lista ufficiale che ha preso circa il 13%, e poi la lista del Presidente, che è ascrivibile per il 90% al Partito Democratico, perché io sono un consigliere nazionale del Partito Democratico e nelle mie città il circolo dà l'indicazione di votare per questa lista, e così è avvenuto in tutta la Sicilia. Perciò quel 6% che nominato alla lista del presidente Crocetta, che ha eletto 4-5 deputati, sono voti del Partito Democratico, perciò bisogna sommare il 13 più 6, il Partito Democratico circa il 20%, in linea perfettamente con i sondaggi nazionali, perché danno il partito sul 20% in Sicilia e il 30% a livello nazionale. Aspetti un secondo, le spiego, perché questa è un'osservazione ma ha bisogno di una risposta tecnica. Non è questo, mi dispiace che non ci sia il professor Dalle Monte, se no più autorevolmente glielo facevo dire da lei. Non sto polemizzando, solo per capire. Quello che noi non possiamo tecnicamente fare è attribuire al Partito Democratico, questo non si fa per qualunque partito, non al Partito Democratico, i voti di lista si attribuiscono, perché quando c'è un vantaggio su una lista separata, la lista separata del presidente non si può sommare al voto del partito. Poi lei ci dice: guardate che sono voti nostri, e vabbè, d'accordo, ma tecnicamente lei capisce, ci sta muovendo un'obiezione che tecnicamente è abbastanza infondata. Se lo facessimo sarebbe scorretto. Comunque, prego, dica. No, io dico che in ogni, praticamente il Partito Democratico in ogni comune è inserito due elementi nella lista del partito, nella lista del presidente. Nei posti dove questo candidato aveva possibilità di concorrere, di vincere, come nel mio, poi purtroppo non ha vinto, il circolo ha votato, cioè ha dato indicazione ai cittadini, per quello che ancora noi, perché ancora noi gli elettori li seguiamo, abbiamo un consenso. Però Mario, siccome appunto lei è un dirigente, un militante, se ho capito bene, del PD, il giudizio per il quale l'operazione Crocetta, non sto dando un giudizio sull'ex sindaco, ex costruttiano di Gela, dico tutti quanti noi quando abbiamo visto quanti candidati portati a dire la verità in quell'operazione, più da Casini e da Fini che da altri, ma non fossero espressione diretta del sistema lombardo, questo fatto è un fatto o no secondo lei? Guarda, poi non, purtroppo moltissima gente non conosce chi è Crocetta, basterebbe fare un'analisi, cosa ha fatto Crocetta quando è stato sindaco di Gela. Il primo atto è stato quello di licenziare la moglie di un boss mafioso che ne ha decretato la condanna a morte, poi ha fatto gli appalti con la... Crocetta non chiederà nessun accordo con lui. Scusi, Crocetta già ha detto, mi pare in modo chiaro, che lui proporrà dei progetti, chi non li vuole, se lo boicottano, scioglie l'assemblea e si vanno alle elezioni e prenderà una valanga di voti. Va bene, vedremo, però io le ho chiesto dei candidati di cui abbiamo letto i nomi a questo microfono. Lei mi sta dicendo fidati di Crocetta. Io i candidati, Mario, li ho visti, e su questo, siccome c'erano, non so cosa dirle. Dopodiché io non manco di rispetto a quello che ha fatto il sindaco quando stava a Gela. Vedremo se scioglierà la regione, come dice lei, questo si figuri. Però i fatti per il momento restano quelli, neanche lei me li ha smentiti. Allora qui ci abbiamo un dissidente, perché io vi ricordo che intanto ieri si è spostato lo spread, questo ricordatelo a tutti coloro che vi dicono che nel 2012 torna a splendere il sole, che il governo Monti bis è stata la cosa migliore del mondo. Dice Montezemolo, la cosa migliore da chiedere è quella di vedere se si vuole ricandidare. Per me sì, è una cosa buona solo se cambia la parcia di politica economica, perché altrimenti l'IMU sale del 700%, come avete visto, e da questo punto di vista non si può dire che non si poteva cambiare marcia rispetto a Tremonti. Poi se leggo che Berlusconi ha come asse, come vera soluzione a questa bella tragedia che ha combinato lui e il suo PDL, quello di rifare l'alleanza con Tremonti e Boss, mi scappa da ridere. Cioè veramente capisco solo chi vota, chi non vota o vota Grillo, se non c'è un'alternativa alla società civile. A me la società civile pare che non mi si voglia, perché vedete troppo taglienti, fate un po' voi. Sentiamo Victor dalla provincia di Trapani come la pensa. Prego Victor. Sì, buongiorno a tutti, a lei, dottor Giannino, e quanti ci ascoltano. Ascolti, in Sicilia la situazione, diciamo, è particolarmente drammatica, perché coloro i quali non sono andati a votare, che rappresentano la maggioranza, sì, del corpo elettorale, io non condivido l'analisi fatta da molti osservatori che tale non voto rappresenti un voto di protesta. Qua la situazione è ancora più grave. E cosa rappresenta? La gente è convinta che non è assolutamente utile andare a votare. Però Victor, aspetti, le spiego, perché da una parte lei non ha torto, è ovvio, la gente che non va a votare dice è inutile andare a votare, però il giudizio di utilità non è un giudizio per forza da dire è inutile in qualunque modo partecipare, tanto è tutto uguale. Il giudizio è sulle offerte politiche che esistano, Victor, cioè se io mi trovo da una parte la lista Crocetta espressione di Lombardo, dall'altra mi trovo un PDL che si autouccide e da gentaglia, e poi mi trovo solo Grillo e non mi voglio andare a votare per Grillo, io e su quello offerta politica che resto a casa, non perché non sia un cittadino che crede nel voto. Lei non crede? Sì, assolutamente, però il voto di protesta ha una sua refluenza sul carattere stesso dell'espressione. Io ritengo invece che la patologia in Sicilia sia legata appunto a una prospettiva di un corpo elettorale che ormai è devastato dalla condizione che ritiene questo sistema non più in grado di poter mantenere in piedi se stesso. Le faccio un solo esempio e chiudo, non voglio annoiare chi ci ascolta. Se andiamo a fare un'analisi di coloro i quali invece sono stati eletti, ma anche nell'alleanza del PD con l'UDC, ci accorgiamo che il PD ha fatto un'alleanza che è assolutamente strumentale, perché molti di quelli eletti nelle file dell'UDC sono quelli che fino a ieri rappresentavano la vecchia classe politica. Come detto, il metodo certamente, certamente, sono d'accordo. Su questo chi conosce poi fatti, cose e circostanze sa bene di cosa sto parlando. Ho tentato di dirlo anche prima, sì. E quindi alla fine il punto è che dovremmo, e io invito i siciliani a evitare questa forma di astensionismo che non fa altro che poi dare sostegno. Che eternare le operazioni di trasformismo. Grazie Vittorio, sentiamo Alberto. Alberto da Roma, prego. Buongiorno Oscar, così non si ferma il declino. No, dire di no, lo so, però che vuole caro, caro amico mio, così non va bene, perché io amo la Sicilia e i siciliani, dove ho passato un periodo stupendo della mia giovinezza di lavoro, ma hanno sbagliato quelli che non sono andati a votare, non chi ha votato. Oggi abbiamo un voto rappresentato civilmente, democraticamente, da persone che si sono messe nella visibilità, che hanno... Alberto, però guarda che io devo difendere, il non voto è un'espressione altrettanto, guardi, la cosa del dovere civile era una buona terapia ed è un buon Vangelo, per così dire, pubblico, per abituare gli italiani al voto dopo il fascismo. L'astensione dal voto come espressione non mi ritrovo in nessuna di queste offerte politiche, è l'espressione più rilevante, vuol dire che tutte sono inadeguate. Alberto, io registro la tua opinione, dice, a torto chi non vota, non si può costringere la gente a dire mi piacciono questo quel dolce perché mi fanno tutti schifo, e questa devo dire la verità, attualmente è la mia stessa opinione, io attualmente non ho niente da votare alle politiche, non devo parlare di questo. Però Elio da Roma, prego Elio. Buongiorno. In merito a quello che ho inteso questa mattina sulla rassegna stampa, che non c'è opportunità di maggioranza per Crocetta, io invece penso che Crocetta, il PD e l'UDC in questa occasione potrebbero avere una grande opportunità per dimostrare la loro credibilità per il futuro, le prossime elezioni. Due cose semplici: presentare subito la legge sulla riduzione dei parlamentari e sul dimezzamento dei loro emolumenti. Questa mattina Miccichetti diceva che guadagnano oltre 15.000 euro al mese. Questi due provvedimenti, il 5 Stelle che cosa fa? Non li vota? Sicuramente li vota, e di conseguenza la maggioranza uscirebbe fuori. Sarebbe un ottimo inizio e una grande carta di credito per le prossime elezioni, proprio per il PD, l'UDC e via. Va bene Elio, vediamo se il PD e l'UDC riusciranno a fare una proposta che non hanno mai votato in Parlamento, perché sai, le chiacchiere stanno a zero, la gente vede quello che ha visto in Parlamento, vede che quando il governo Monti dice tagliamo le spese delle regioni si inventano la bicamerale, non si può, non si deve, abbiamo fatto la trasmissione. Io su questa base non ho, io per primo, di che andare a votare, e credo che i tanti milioni di italiani che pensano come me, forse non, perché siamo incivili. Però detto tutto questo, ci vediamo domani, continuate ad ascoltare su questa radio, per me sempre stato ladro, però questo è uno dei punti di fondo. A domani.